pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una poesia di Nico Menchini dal titolo Primavera. Ha capelli dorati come ginestra tra i colli, seni delicati di pesca e a piedi nudi, l'erba carezza fresca, sfiora con mano delicata i ghiacci tra i monti, al vento capriccioso danza leggera portata da petali rosa e bianchi. Senza bussare, silenziosa, entra dalle porte dei cuori e mani esitanti sospinge ad accarezzare i visi cercati e i corpi a tremare stretti sotto la luna dei fiori. E profumati sorrisi regala a rami ossuti, come le dita di morte, che un'ombra gettano oscura a velare per poco il viso di chi la luce vera aveva nei limpidi occhi e di avide spine una corona sul capo. Ma dalla campagna remota alle vette dei palazzi giunge la voce lieta di festosi campanili che, liberi dai ceppi, salutano con note squillanti la vita che ritorna.